si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua con Si può fare, puntata speciale, ma rimanete con noi perché ne sentirete delle belle. E d'altra parte Si può fare è il bello dell'attualità che cambia. Allora risentiremo per esempio l'intervista ai 99 Posse. Sono tornati a 20 anni da Cure Cure Guagliò con Cure Cure Guagliò 2.0. Sentiremo se sono sempre duri e puri i combattenti, il simbolo delle lotte sociali degli anni 90, o se si sono un po' ammorbiditi. Ma se state pensando che siano solo braccia rubate all'agricoltura, le mie, magari quelle anche dei 99 Posse, allora state tranquilli perché abbiamo anche quel capitolo lì. Abbiamo il capitolo orti urbani a Roma e boom, sentiremo chi li ha mappati tutti, Zappata Romana. E poi non potevamo non darvi un consiglio per questi giorni di vacanza, e vi consiglieremo di andare nelle Marche, dove i marchigiani vi apriranno le porte di casa loro offrendovi pranzo e cena, e perché no anche raccontandovi le storie della loro terra. Allora restate con noi, cominciamo con Roma. Così ho capito, nella vita il significato e il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato fidanzata. Ha detto il ministro dell'agricoltura Martina questa settimana che l'agricoltura potrebbe produrre in questi anni 150.000 nuovi posti di lavoro. Straordinario. Complimenti. Beh, insomma, è un annuncio così, non dico estemporaneo, però è un annuncio, bisogna fare qualcosa però perché questo accada, altrimenti è l'ennesimo ministro che dice sì, l'agricoltura è un potenziale straordinario, però poi non succede mai che c'è questo boom veramente. Ma beh, però in realtà noi abbiamo spesse sì. volte sentito sì. anche ascoltatori che ci chiamavano e dicevano io sono laureato, ho fatto questo, però adesso invece ho deciso di coltivare o l'azienda di famiglia o anche certo. no, di gente che non di famiglia, perché quello diciamo se no sarebbe anche un po' troppo facile, di mettersi nell'agricoltura resto, o prodotti biologici o prodotti di nicchia, ovviamente non la grande distribuzione, però ce l'ha insegnato Michelle Obama quando è andato Barack Obama è andato dal Papa, ha portato i semi dell'orto di Michelle Obama, ce l'ha insegnato la regina Elisabetta, a coltivare l'orto è divertente, fa bene a tutti, ed è una cosa che va sempre più di moda anche a Roma, dove tra l'altro c'è un'iniziativa che si chiama Zappata Romana, che è un sito nel quale si mappano tutti gli orti di Roma. Noi ne vogliamo parlare con Silvia Cioli, che è cofondatrice di Zappata Romana. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Tra l'altro, insomma, Roma è straordinaria, ma anche uscendo fuori Roma si trova una campagna bellissima, per cui voi siete da questo punto di vista avvantaggiati. Però qua parliamo proprio di orti urbani, quel fenomeno proprio dei pezzettini di terra ricavati da qualunque nicchia. Sì, è vero. È una cosa che a suo tempo aveva stupito anche noi. In realtà Zappata Romana è iniziata semplicemente con una mappa basata su Google Maps, sì. Con delle icone che localizzavano quel che noi verso la fine del 2010 avevamo trovato, una quarantina di comunità. Abbiamo mappato solo situazioni in cui persone si erano messe insieme con un'iniziativa assolutamente spontanea, persone che si erano messe insieme rimboccandosi le maniche per recuperare un'area degradata sotto casa o per presidiare un'area che rischiava una speculazione edilizia. Quindi qualcosa di più del semplice orto, che uno magari ha un pezzettino di terra a disposizione e se lo coltiva. Qua parliamo proprio anche di cercare di recuperare angoli, giardini, pezzettini, aiuole, pezzettini di terra che sono vanno spesso in degrado. Anche perché, diciamo una cosa, qual è il problema che spesso hanno i comuni? La manutenzione ha un costo. Sì, la manutenzione del verde è problematica nelle grandi città. Roma in special modo ha una quantità di... È una città poco densa, una quantità di aree libere, non coltivate, enorme. E questa situazione ha portato a una reazione, direi, costruttiva e positiva da parte di molti gruppi di cittadini che invece di lamentarsi e basta, sono passati all'azione. Questa azione poi ha restituito al vicinato, al quartiere, sì, aree pubbliche che fossero un minimo mantenute, accessibili, e poi ne guadagnava in sicurezza anche tutto il quartiere. Esatto, anche perché è bello ricordare anche questa cosa qua, cioè l'orto fa bene anche a chi lo fa, non soltanto, diciamo, fa bene alla città, fa bene all'ambiente, perché il verde, perché in alcuni casi frutta e verdura a chilometro zero, tutto quello che volete, gli alberi che abbelliscono il paesaggio, ma è anche divertente, socializzante, cioè curare un pezzo di giardino può essere addirittura terapeutico. Assolutamente, soprattutto in un contesto urbano dove la distanza con la natura è cresciuta molto, la distanza tra generazioni, l'orto è un rarissimo luogo dove ci si può trovare qualsiasi età, qualsiasi estrazione sociale, e si ha un'attività in comune da svolgere, e questo fa bene a tutti, cioè l'anziano che ritrova un ruolo in cui può insegnare al più giovane, c'è lo straniero che può provare la lingua e un inserimento, e direi che alla fine si coltivano zucchine, ma si coltivano prima di tutto legami e rapporti con gli altri, cioè la vera spinta motrice è la socializzazione, il bisogno di partecipare a qualcosa di comune. Quanti... È chiaro che anche sì, l'autoproduzione è interessante in tempi di crisi, sono tanti gli aspetti che si sommano e ne fanno un luogo veramente speciale della città. Direi che sostituisce anche la palestra, giusto? Sì, perché un pochino. Mi scusi, io sono lo stupido dei due, non sono il giornalista, quindi le chiedo scusa. Però in effetti è vero, uno risparmia sì, i soldi della palestra E compra i semini dei fagiolini, perfetto, invece che ed fare è anche del più fitness, divertente che correre su un tapirulan. Senta, però io Silvia non vorrei mettervi in concorrenza con, per esempio, con Bologna, perché vi voglio chiedere quanti orti, quante aree verdi avete mappato, perché per esempio adesso c'è una notizia di questa settimana che a Bologna vanno fortissimi con gli orti urbani, pensi che qua il comune interviene e ogni tanto dà dei lotti a nuovi, diciamo, aspiranti agricoltori, a volte ci sono limiti di età giovane, cioè, 2700 ne hanno dati questa sì, settimana. Torino, Bologna, tantissime sì, città hanno preso iniziative. Roma, il fenomeno è straordinario perché è un fenomeno assolutamente spontaneo, si sta lavorando adesso a costituire un regolamento, il comune sta cominciando a muoversi con la realizzazione dei primi orti, ma fin qui diciamo che le 150 realtà comunità sì, che abbiamo mappato sulla mappa di Zappata Romana sono di natura assolutamente spontanea, e questo rende notevole il fenomeno nella sua consistenza. Noi abbiamo contatti con le altre città, tant'è vero Bologna fu un anno e mezzo fa luogo di incontro nazionale sugli orti urbani, ci si ritrovò lì, Milano, cioè diciamo che c'è una rete ormai molto viva e consolidata. Ma mi scusi, le volevo chiedere una cosa, ma se uno volesse avere un orto, cioè come fa? Deve già avere un terreno, deve fare richiesta, cioè come funziona? Allora, noi sul sito di Zappata Romana abbiamo messo anche un piccolo manualetto, molto pratico, molto breve, per avviare un orto o un giardino condiviso. La prima cosa è adocchiare un posto vicino casa che sia realisticamente... Certo, perché poi bisogna andarci con l'innaffiatoio, sì, sennò diventa scomodo a 9 chilometri. Scusi, adocchiare in che senso? Cioè un posto abbandonato di qualche tipo, però si va incontro a qualche... Sì, un posto libero, dopodiché bisogna verificarne la proprietà, sì, se è pubblica, se è privata. Quindi allora, se è privata niente, se è pubblica uno fa richiesta di trasformare quell'arte. Non è detto, esiste tutto, esistono anche forme di usufrutto. Ah certo, quindi uno può chiedere anche a un privato, coltivo questo tuo pezzetto di terra che tanto tu stai lasciando abbandonato. In senso lato ci sono anche conventi, certo, che sono disposti, oppure anche aziende. È vero, ci sono una serie di situazioni intermedie strane che possono essere sondate, capire se il proprietario, l'ente pubblico o qualche associazione ha magari interesse a che tu, o quantomeno non ti ostacola, certo, e ti dà l'autorizzazione. Ma ovunque possono essere questi orti urbani?

Noi abbiamo due appuntamenti fissi e stiamo pensando comunque di ampliare questa cosa, mettere a sistema come, diciamo, offerta turistica a sé, offerta di un turismo particolare chiaramente, perché iniziamo sempre con l'autunno, c'è un'edizione autunnale e quest'anno è la prima edizione primaverile. Che fate anche primavera. Certo, l'ultima certo. cosa che dobbiamo assolutamente dire è se qualcuno che ci sta ascoltando è interessato a partecipare, come deve fare? Dunque, deve contattarci all'indirizzo info@unpaese e c'è unpaese100storie.it, 100 in lettere. Sì. Può guardare il nostro sito dove trova tutti i riferimenti. Ci sono ancora posti disponibili, quindi se qualcuno è interessato, fatevi avanti. Unpaese100storie senza la E in aggiunta. No, lo senza dico perché poi uno digita sì. e sennò poi non vi trova e magari un paese e 100 storie si scopre che invece è un sito porno, quindi è giusto dirlo. No, perché la Dirce si offenderebbe tantissimo, la signora che voi avete visto nel comunicato stampa. Quel pupazzo si chiama Dirce e adesso tenderebbe tantissimo. Giusto. La Dirce. Giustamente. Dirce. Grazie mille, Cristina Ortolani. Grazie mille. Ciao. Esattamente. Ciao. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Si può fare, è un grande momento a Si può fare Radio 24. Loro sono la band simbolo degli anni 90 in Italia, negli anni 2000 si sono sciolti e poi riformati. Adesso celebrano il loro disco d'esordio Curre Curre Guagliò con un nuovo Curre Curre Guagliò 2.0. Non un passo indietro, l'avete capito, sono in studio con noi 99 Posse. Era un onore stupendo, bellissimo. Io sono felicissimo e sono emozionato. Poi posso dire che non anch'io. Mi sarei mai aspettato di incontrare 99 Posse la domenica mattina alle 10, ma avendo dormito, perché mi aspettavo di incontrarli alla mattina alle 10, ma dopo aver fatto tutta la notte in bianco tutto al concerto. Invece sono proprio invecchiato, mia mamma sarà molto contenta. 2 su 4. Non ti preoccupare, che la notte in bianco l'abbiamo fatta noi. Lo sapevo. Hanno fatto il concerto a Leon Cavallo. Perché io sono invecchiato, ma loro no, è questa la vera cosa. Luca Persico, in arte Zulu, e Massimo Iovine in arte Jerem. Vabbè, insomma, sentiamo un po'. Un disco che sta già in alto nelle classifiche, ci fa molto piacere. Ci dicevi che siete già al secondo posto. Sì, sia in quella immateriale che in quella materiale. Cioè quella, diciamo, di iTunes e quella dei negozi. Ah, perfetto. È un dato interessante perché tutto il ricavato delle vendite del disco andrà devoluto per la costruzione dell'asilo Arrigoni nella striscia di Gaza. Quindi questo siamo molto contenti. Vittorio Arrigoni, morto in che anno? Adesso me l'ero segnato, cioè abbiamo tutto qua, il cooperante italiano, e quindi era il, vediamo se lo trovo, il 15 aprile del 2011. E quindi una bella iniziativa, molto importante ricordarlo. Giustamente, un disco Curre Curre Guagliò 2.0, pieno di collaborazioni di artisti importanti. Adesso cominciamo, vogliamo elencarne qualcuno, se ve li ricordate tutti, perché sono tanti. L'elenco, diciamo, è lungo, però un po' vi aiuto io, semmai ci dovremmo ricordare. C'è sicuramente Paolo Rossi, diciamo. Sì, c'è giusto? Paolo Rossi abbinato con Caparezza. Lo dico per affetto, che saluto Paolo Rossi. Poi ci sono Albo Rosi e Mamma Marias, Samuel De Subsonica, Enzi, Sangue Mostro, Iovine, Clementino, Pau De Negrita, i Pancreas, la Banda Bassotti, Roy Paci. Tutti, Enzo Avitabile pure. Enzo Avitabile con i Bottari. Sono Francesco Di Bella, Urban Snakes, forse le abbiamo detti tutti. Red Room Marder, no, non le avevo dette. Forse adesso ci siamo. Sentiamo ancora qualcosa. Mamma e guardi a casa saventa vere e non spazio popolare non è buono perché controculturale magari perché. In realtà era il 1993, quindi sono 20 anni più uno a questo punto. Sono i 20 anni col ritardo napoletano. Con ritardo napoletano, giustamente. Perfetto. Sì. Avevamo saltato qualche ospite, però posso ricordare J-Ax. Giusto, J-Ax, certo. Signor K, Bonnu, che abbiamo. Secondo me qualcuno è sfuggito, perché sono davvero tanti. Quanti sono? Il numero lo sapete? 19, quindi almeno il numero esatto l'abbiamo detto. Allora, Curre Curre Guagliò, un album storico. Adesso poi magari facciamo anche un passo indietro per tornare a quel momento, come è nato, quando siete partiti, se vi aspettavate anche poi di iniziare una carriera così straordinaria. Però adesso che è passato questo tempo, vi voglio chiedere come vi sentite, come degli eroi, come dei sopravvissuti, oppure siete pensate tra voi e voi, ma siamo stati fortunati, insomma, nessun eroismo. Cos'è? Ma guarda, non c'entra né l'eroismo né la fortuna. Siamo delle persone che hanno sempre provato ad autorappresentarsi in un mondo che non ci rappresentava, non solo, e in cui non c'era nessuno, diciamo, disposto a rappresentarci da un lato, ma soprattutto che non ci prevedeva come soggetti, proprio sia culturali che politici, spesso anche addirittura geografici. Per cui abbiamo, diciamo, fatto quello che dovevamo per rimanere vivi. In quest'ultimo disco, in uno dei quattro inediti che pure abbiamo inserito dentro, ci siamo definiti dei depuratori che, come dire, che assumono veleni e sopravvivono solo trasformandoli in energia pulita, non in canzoni. Bella questa. Torniamo però, mi piacerebbe ritornare un po', l'avrete fatto con la mente mille volte, a quando è nato il vostro primo album, credo che fosse il primo, Cure Cure Guaglione. Sì, sì, sì. Quante copie ha venduto? In quegli anni era un po' difficile, è un po' difficile tenere le cifre, adesso è più facile. C'era ancora la lira, non c'era, si contavano le copie. Tipo un 60.000, però non prese mai il disco d'oro, perché all'epoca il disco d'oro si prendeva a 100.000. Ora le avrà superate le 100.000 negli anni, però penso assolutamente di sì. Targa Tenco per la canzone dialettale, o comunque Targa Tenco, colonna sonora di un film di Salvatore. Se in poco tempo vi siete trovati in mezzo a qualcosa. A Napoli si dice in mezzo a una discoteca di paccheri, che sei una discoteca di schiaffoni. Senza conoscere il DJ. Io paccheri mi immaginavo la pasta e mi immaginavo una bellissima discoteca strapiena di paccheri a ragù, mi sembrava stupendo. Ma come vi sentivate in quel 93? Sulla cresta dell'onda, veramente sentivate qualcosa che montava insieme a voi, oppure vi ritenevate degli outsider e siete stati appunto travolti da questa situazione? Ci sentivamo sulla cresta dell'onda, ma non come musicisti o come artisti o come gruppo musicale, piuttosto come area sociale. Cioè, quelli erano gli anni, negli anni immediatamente precedenti, sul finire dell'89, grazie, come dire, all'atto rivoluzionario di alcuni compagni proprio qua di Milano, che decisero di rispondere ad uno sgombero del centro sociale Leon Cavallo salendo sul tetto incappucciati e lanciando di tutto sulla polizia che tentava di sgomberarli. Questa cosa riportò improvvisamente gli anni 70 in televisione. Per noi che ci siamo, io sono nato nel 70 proprio, per cui me li ero persi gli anni 70. È stata l'unica emozione da anni 70 della mia gioventù, e da quel momento mi sono andato a cercare il centro sociale più vicino a casa mia, ho incominciato a cercare l'area di questi compagni, insomma, non ne sapevo tanto. Grazie a quell'atto eclatante mi sono immediatamente tuffato in questa realtà, e noi ci andavamo sempre in giro, anche il premio Tenco ce lo andammo a prendere, ma ce lo prendemmo in quanto area sociale di compagni che, cioè, proprio rifiutavamo questo fatto di essere un gruppo musicale. Ora, dopo 20 anni, abbiamo un po' fatto pace con questa cosa. Ma sono tante le cose che vengono in mente sentendo questi racconti, no? Per esempio, i centri sociali sono stati il luogo nel quale siete nati. Ieri sera eravate a suonare in un centro sociale a Leon Cavallo, che però oggi è qualcosa di diverso. È anche in un altro luogo fisicamente, anche in un da altro quello luogo che stava raccontando giustamente dell'occupazione, di quello che cercava di non farsi sgomberare. La curiosità è questa, cioè il fatto che per esempio oggi molti centri sociali siano dei luoghi autorizzati, legali, legalizzati, dei circoli culturali molto ripuliti rispetto a quella che era l'atmosfera più battagliera che raccontavi tu, però comunque dei luoghi dove si fa cultura, dove si fa musica, si fanno cose, è una, come dire, anche una vittoria che è una che conquista, è una conquista che... Io poi non sono tanto d'accordo sul ripuliti dal punto di vista di quanto siano battaglieri, perché molti di quelli che hanno avuto in qualche maniera il riconoscimento ufficiale sono in prima linea nelle situazioni più calde che ci sono state almeno fino ad oggi. E poi ce n'è moltissimi che sono ancora, invece, che vengono sgomberati. Esatto. Proprio l'altro giorno c'erano due compagni sopra il tetto di una pizzeria in zona Piazza Napoli, ce ne siamo accorti perché siamo passati con la macchina, c'erano più guardie che smog. E vi siete fermati. ci siamo fermati un attimo, ma dovevamo andare. E le guardie hanno detto: ma è possibile che due salgono sul tetto e arrivano i 99 posti qua a Milano? Cioè. Non deve essere stato un bel momento per la polizia. Mi sveglio la mattina ripetutamente, ma sento una mappina ripetutamente, ci vorrebbe un'aspirina ripetutamente, una dose più potente ripetutamente, vado di là in cucina ripetutamente, nel frigo non c'è niente ripetutamente, un dolore insistente ripetutamente, nel corpo e nella mente ripetutamente, un fumo non fa niente ripetutamente, ma le righe proprio niente ripetutamente, giornata produttiva, che giornata divertente, che giornata ripetuta ripetutamente. Penso di averlo consumato l'originale, la prima versione di questa canzone in vinile. Sì, no, giusto? In CD. C'erano già i CD. Io in musicassetta, perché doppiavo tipo di me, sì. O si va in galera, sarà in prescrizione il fatto che ho registrato delle musicassette. Secondo me è prescritto. Ma volevo chiedervi una cosa, perché se non mi sbaglio tu dichiarasti che la possibilità che il gruppo torni a suonare insieme è pari a zero, questo quasi 10 anni fa. E poi cos'è successo invece? Che avete deciso? Successo che mi è passata la grande sbornia che avevo preso quando ho rilasciato quell'intervista, stavo ubriachissimo, tra l'altro si vede pure se te la guardi con un occhio un po' più esperto. E comunque sì, comunque all'epoca lo pensavo, ero ubriaco però un po' lo pensavo. Questo è bellissimo però, fermi di una dichiarazione, perché vedi è pericoloso bere, perché uno poi incontra un giornalista, fa una dichiarazione e poi gli tocca per 9 anni non poter suonare con i suoi amici e grandissimi oppure collaboratori, oppure passare il resto della vita a dover smentire quell'affermazione. Esatto. Una curiosità anche proprio musicale, artistica, come nascono le vostre canzoni, che sono ricche di molte sonorità? 99 posse, intanto cosa sono le posse? Perché secondo me non lo sa. Le posse sono è un termine che risale, penso, all'America, quella dei cowboy e degli indiani, no? La posse era quel gruppo di persone che si mettono insieme o per assaltare il treno, la diligenza, e rubare i preziosi, oppure dall'altro lato quella che mette insieme lo sceriffo per dare la caccia a queste bande di criminali, per cui resta il senso di gruppo qualche... di persone che si uniscono per un obiettivo, sia esso criminale oppure legale. Beh, c'è anche la giustifica, giustamente. Dice no, perché lo facevano anche i buoni, lo facevano anche gli sceriffi. Esatto. Che lo dici anche nella presentazione di questo album, fare comunità potrebbe essere un altro modo per leggere questa cosa. Ma come nascono appunto le vostre canzoni, che hanno tante sonorità diverse? C'è veramente tanto, sia nelle prime vostre canzoni, ma anche in quelle di adesso. Come vi mettete intorno a tavola? Proprio grazie al fatto che ognuno di noi ha il suo background musicale e anche il suo background politico, no? A Napoli c'era per esempio un centro sociale del Tienamento dove si faceva punk, che era un centro sociale anarchico da dove arrivavo io, e quando ho conosciuto Luca, Marco eccetera, ho portato il mio bagaglio musicale e culturale dentro a questa cosa. Lo stesso Luca che faceva precedentemente ad esempio il DJ e passava lui piace definirsi lo svuotapiste per eccellenza. Cioè lui doveva mettere tutto quello che era rock non ballabile, no? Negli anni 80 non le svuotavo le piste, cioè. Poi le riempite però sì. Adesso è tornato pure a fare il DJ, perché comunque questa sua passione non l'ha mai tralasciata, solo che oggi l'effetto non è più lo stesso di 20 anni prima. Quindi proprio una voglia di mettere insieme cose molto diverse tra di loro. Sì, però avete anche il dono di riuscire a farlo in un certo modo, perché questo non ce lo devi chiedere a noi, non ce l'aspettavamo o lo devi chiedere a mamma, persone che sono responsabili, oppure lo diciamo come affermazione. Sì, no, però ci siamo accorti di questa cosa, cioè che il disco ha avuto, il disco originale ha avuto un potere trasversale che andava proprio al di là della nostra volontà iniziale. È un'altra curiosità. Noi eravamo convinti di rivolgerci alla nostra area stretta ed eravamo anche convinti che non fossero comprensibili la maggior parte delle nostre canzoni per chi non partecipava a quelle cose. Invece sì, pur rimanendo in larga parte incomprensibili, hanno però stimolato la curiosità di andare a cercare di comprenderle queste cose in tantissimi soggetti che con la politica attiva non avevano e non hanno niente a che fare. Soggetti periferici, no, penso proprio alla gente dei quartieri ultrapopolari, dove comunque non si ascolta musica, non si fa politica. Perché fondamentalmente ci si sveglia la mattina e si va avanti fino alla notte a trottare per portare 2 lire a casa e nutrire la famiglia, no? Infatti la vostra non è solo musica, in realtà è noi arriviamo, protesta, arriviamo in questi contesti, e da questi contesti tanta gente sostiene, venendo ai nostri concerti, di essere uscita, di essersi avvicinata alla politica dopo aver per esempio ascoltato però, appunto, le nostre cose. Il messaggio sociale sicuramente caratterizza molto la vostra musica, però questa cosa che tu hai detto, che siete riusciti ad andare, forse neanche lo volevate, al di là, è perché c'è qualche ingrediente in questa musica, nei testi, anche l'uso del dialetto napoletano, però sempre abbastanza comprensibile anche per chi non è di Napoli, ha creato un mix che ha veramente... Ti volevo dare una notizia, non c'è nessuno che non è di Napoli. In generale nel mondo, sì, nel mondo. Noi stiamo cercando di sviluppare un pensiero antileghista che non si però limiti, che non si fossilizzi sulla critica alla Lega. Perfetto. Ma che cerchi invece di ribaltarne il punto di vista. Vorremmo arrivare a dimostrare che siamo tutti napoletani, che il razzismo e il leghismo sono inutili oggi, perché comunque ogni persona del pianeta ha dentro di sé qualche cosa del qualche pezzo di napoletano che arriva da qualche parte, per cui la razza pura è stata sconfitta dai germi infetti dei terroni, e quindi che si rassegnassero una volta per e voi avete senz'altro contribuito a questa contaminazione culturale. Sì, sì. Voi siete i duri e puri anche proprio, e lo ricordi in continuazione, no? Anticapitalisti. Siamo i duri e pure. Eppure nonostante. Eppure, vogliamo pure. Dire, vogliamo chiuderla sulle patate? Ma questo ve lo sentite sicuramente ancora oggi, ma ci sarà qualcosa che invece, non lo so, che vi fa scivolare nel mondo del consumismo, nel mondo delle cose che invece contestate, non lo so. Qualcosa... Avete l'iPhone? Volete arrivare a questo? No, non lo so, per esempio, qualcosa a cui non riuscite a resistere. Guarda, io l'ho dichiarato proprio ultimamente in un'altra intervista, c'ho questo problema con la Nutella che è anche... Beh, qua sfondi una porta aperta. Poi c'è un'altra cosa che normalmente non viene considerata consumismo, ma viene considerata addirittura reato, non so se la posso dire, io la dico perché tanto lo sanno tutti, la marijuana, questa pure è una cosa, certo. Spendo un sacco di soldi in marijuana, cazzo. noi facciamo una vorrei anche, campagna vorrei qua. Anche però, scusami, sì, prego. Approfittare del microfono per ribadire prima di tutto con le eventuali guardie in ascolto che si stanno prendendo i dati e gli appunti, che tu non sei Carlo Gabardini, no, che io essendo ancora soggetto ad avviso orale, per cui dovrei stare attento a quello che dico, vorrei esprimere chiaramente il mio pensiero. Io non sto invitando implicitamente nessuno che non abbia provato la sostanza a provarla, anzi vorrei ribadire che io sto invitando tutti quelli che non hanno provato la sostanza a non provarla mai. Certo. Non però perché... anche perché ti dà fastidio che ti tocchino le cose tue, diciamo, giusto? No, perché mi dà fastidio perché la marijuana quella è nel pianeta ed è anche un po' in diminuzione, esatto, per via delle leggi restrittive, quindi più condivido. Siamo a fumarne meno ce ne tocca. Non vuoi smezzare, non dice. Voglio smezzare, mi sembra perfetto. Beh, e sai che comunque hai detto che hai un problema con la Nutella, a tuo rischio e pericolo. Io dopo, se vuoi, ti racconto, avendo fatto io un video che si chiama Marmellata e Nutella, dove diciamo dico che esiste, con una metafora, esatto, dove la marmellata è l'eterosessualità e la Nutella è la gaytudine, io ti dico che a tuo rischio e pericolo hai appena detto con me presente che tu sei per la Nutella, a posto. Ma figurati, non c'è problema, siamo tutti curiosi. Posso farvi un paio di domande tipo come si fa nelle trasmissioni semiserie, tipo test culturale musicale, perché sì, così introduciamo un altro paio di argomenti. Allora, voi naturalmente Sanremo, non so se l'avete visto o no, però non ci perdiamo una puntata quando non c'è Sanremo, ci guardiamo tutte le edizioni passate, però qua vi voglio. Praticamente per noi è Sanremo tutto l'anno. Chi ha vinto non il festival ma il premio della critica a quest'ultimo Sanremo? Uno dei figli dei Pooh, prima risposta: Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, Filippo Graziani, figlio di Ivan, oppure Cristiano De André, figlio di Fabrizio? Cristiano De André. La sapevano. Però, vabbè, non era difficilissimo, era difficile. No, vabbè, però se loro non seguono Sanremo, visto, sono duri e puri, però lo sanno chi ha vinto. Ma, comunque bisogna conoscere anche il nemico, giustamente. Non è che non è neanche un nemico. No, lo è stato un nemico, però adesso ormai siamo più forti di lui. Per cui, è la messa a Sanremo, è così. No, pensavo è così. Sparare su Sanremo da parte di un gruppo insomma che fa 4.750 persone al cavallo sarebbe un po'. Che secondo me Sanremo non ha fatto neanche come ascoltatori in tutta, no, in tutta la settimana. Nonostante, perché io non ci credo alle cose Auditel, secondo me se le inventano, di che cazzo li controlla? senza offendere nessuno dei cantanti di Sanremo, credo che molti avrebbero difficoltà a fare la metà del pubblico che fate voi ogni sera. No, lasciamo stare, molti di loro le fanno questi, stiamo scherzando, come dire, simpaticamente. Però qualcuno avrebbe qualche però in difficoltà. Generale non... Ma voi ci andreste mai a Sanremo? Chiudi un attimo gli occhi. Ci fai fare la dichiarazione come quella, non ci rimetteremo mai più insieme. Bravo, esatto. Tanto gli 99 prosce, appunto. Comunque lo sfizio dell'Ariston ce l'hanno tolto già due volte grazie al premio Tenco, diciamo. È vero. Per noi ogni spazio in qualche modo è uno spazio conquistato, però un ragionamento andrebbe fatto a parte per Sanremo, perché comunque avremmo tanto da discutere anche sul fatto di alcune della scelta in genere della musica, no? Sì. Anche se quest'anno per esempio c'è stato per noi una sorpresa, che Rocco Hunt comunque in qualche modo sfiora anche il nostro mondo e aver vinto con un brano hip hop Sanremo Giovani ci sembra una novità interessante per quello che è l'aspetto musicale, diciamo. Proprio per quello che dicevate prima, che in realtà c'è molta gente che si è avvicinata alla politica grazie alla vostra musica, ben venga che venga sentita da persone che magari normalmente non ascolterebbero 99 posse e che magari improvvisamente infatti, si illuminano. Infatti Luca parlava prima di trasversalità, no? Noi quando abbiamo scoperto di avere questa in questa ricetta anche questo ingrediente ci abbiamo lavorato molto, certo. Perché riuscire era molto più importante uscire da quelle che era la nostra area per cercare di raggiungere anche altre teste, altre persone, certo, altre persone che non la pensano già come voi, quantomeno non vivessero già quell'area e quindi in qualche modo si potessero contaminare. Era importante lavorare su questo. Però voi avete figli? Sì, da pochissimo entrambi. Cosa ne pensate dell'ipotesi che possano seguire le orme paterne e quindi fare musica anche loro? Gli diciamo sono... no. Beh, però vanno a Sanremo, diciamo, per l'assioma che hai appena montato, era questo il gioco. Dici, poi avremo il figlio dei 99 hanno posti. Hanno fatto già un gruppo, comunque hanno uno 6 mesi, uno un anno e due esatto, mesi. Sono troppo e hanno fatto i 99 posteri. Un'altra domanda a proposito di musica regionale, visto che voi fate cantate in dialetto napoletano, anche se ci hai detto che Napoli però noi facciamo musica mondiale e internazionale, compresa in ogni angolo del mondo, cioè non è... consideriamo il napoletano il principale prodotto di esportazione italiano, quindi forse non avete una cosa di cui l'Italia dovrebbe andare fiera. Ma la fate fare questa domanda, scusa. Quali di questi musicisti o cantanti in lingua dialettale esiste veramente? Allora, Riccardo Cendron, cantautore veneto. Rumatera, gruppo punk veneto. Pittura Fresca, gruppo reg veneto. Beh, facilissimo, dai, sono pure colleghi. Pittura Fresca. Però esistono tutti e tre questi qua. Ah sì? Sì. In realtà la domanda era per farvi parlare di cosa. Lo immaginavo. Voi che siete la napoletanità, questo referendum sull'indipendenza del Veneto, c'è gente che ha votato, insomma, è una cosa, per loro è una cosa seria. Come l'avete vissuto voi? Ma tutte le cose che sono serie per qualcuno sono serie, in generale. Poi questi movimenti indipendentisti che nascono dalla troppa ricchezza, dalla volontà di non condividerla, in qualche maniera mi incuriosiscono, perché sono abituato a movimenti di indipendentismo che nascono dal problema che il popolo che si vuole, come dire, rendere autonomo è soggiogato pesantemente dalla situazione alla quale vuole uscire. Beh, i veneti in realtà si sentono soggiogati, perché loro dicono: noi paghiamo più tasse. Li porterei a vivere nella zona mia una settimana per poi dopo tornare in Veneto a mettersi sul loro cazzo di divano e smetterla di rompere i coglioni. Non è che non avete i divani, però noi ce li abbiamo. Vogliamo fare una lotta sui divani? il problema di Napoli sono i divani? È questo? Non c'è Ikea? Non c'è Ikea, però hanno rubato tutto. Carlo, che facciamo? Li lasciamo andare? Perché loro devono fare 700 km per tornare a casa. Vado via con loro. 99 posse, grazie per essere stati con noi. Grazie davvero. E queste erano alcune delle storie che vi abbiamo fatto risentire, puntata speciale di Pasquetta per Si può fare. Se siete rimasti con noi fino adesso vuol dire che vi siete divertiti o vi abbiamo interessato, insomma vi siamo piaciuti, però sappiate che Si può fare, quello vero, torna sabato prossimo in diretta alle 7:30 e poi naturalmente anche con l'appuntamento della domenica. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia. Buona Pasquetta! Sì!